Sono le 10:37 minuti, eccoci di nuovo in diretta da Radio Radicale. Interrompiamo con qualche minuto d'anticipo la replica di Stampa e Regime. In studio con noi il nostro direttore Massimo Bordin per l'intervista settimanale che si tiene appunto di martedì per questa settimana con Emma Bonino, che salutiamo. Buongiorno Emma. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, cominciamo proprio dalla conferenza stampa di ieri a Milano e dalle reazioni che abbiamo visto oggi sui giornali. No, a me pare che insomma, mi è sembrato dalla lettura che tu hai dato, per esempio, dell'articolo di Ignazio su Sulle 24 Ore, che le cose fossero molto ben spiegate. In ogni caso, il mio impegno sul Lazio c'è totale, credo già di questi giorni, delle prossime settimane. La questione è che la lista Bonino-Pannella, come si sa, si presenta anche in altre regioni, e che nella vicenda Lombardia la presentazione è con il governatore Marco Cappato, che è, da questo punto di vista, la mia presenza nelle liste mi sembra davvero un dato importante, perché sia chiaro a tutti gli elettori, oltre che a quelli laziali, anche a quelli lombardi, il fallimento delle promesse berlusconiane, bossiane di rivoluzione liberale e federalista, e persicché in Lombardia la lista Bonino-Pannella, che è fortemente caratterizzata da politiche laiche, liberali e federaliste, deve contrastare in modo efficace, quindi più efficacemente noi riteniamo in autonomia, un blocco di potere che si è venuto a creare in quest'ultimo decennio e che francamente oggi sembra incapace di qualunque grande riforma, a cominciare da quella fiscale, per non parlare della giustizia giusta o dello Stato di diritto. Quindi la presenza è un sostegno, un segno di attenzione alla questione lombarda e al blocco di potere che si è venuto creando in questi decenni, che ha peraltro anche caratteristiche molto centraliste e anche clericali su altri versi. Non credo che, e questo mi pare una situazione abbastanza lineare, evidente, quasi scontata, sicché io capisco l'irritazione di Formigoni o di Lupi, perché loro i flussi elettorali li conoscono molto bene e immagino abbiano visto, guardato con attenzione non solo i flussi elettorali delle ultime europee, ma anche una storia di presenza radicale, federalista, laica, liberale in Lombardia. Basta ricordare e vedere qual è stata l'affluenza e la reazione ai referendum radicali, non dico solo quelli sempre citati, divorzio eccetera, ma parlo ad esempio su quello sul finanziamento pubblico, su quello sulla responsabilità civile dei magistrati, e quindi capisco perfettamente la tentazione, diciamo, della destra di strumentalizzare questa candidatura, per non parlare del fatto che loro sono gli autori, diciamo, spesso in buona compagnia delle leggi elettorali, sempre più a me sembrano confuse, contraddittorie e magari modificate persino in zona Cesarini, come sta succedendo in questi giorni. E dopodiché legalmente uno, che saremmo noi, usa gli spazi che queste loro leggi consentono, e improvvisamente si pone un problema, come dire, legale no, perché è perfettamente legale, o pongono loro una questione, che ne so, di credibilità o di opportunità politica, quando le candidature sono evidentemente un segno di attenzione politica, un messaggio politico. Basta ricordare per esempio che fu proprio Berlusconi a candidarsi ovunque, se non ricordo male, nel 2005. Quindi penso che invece la candidatura di Marco Cappato, il mio sostegno, il mio attenzione che a questa regione che si manifesta in questa mia candidatura, capisco che irriti, in particolare il centrodestra, ma indubbiamente non toglierà energie o tutto l'impegno che ci metto sulla vicenda Lazio, insomma. Ecco, del resto c'è oggi una intervista, sia pure in cronaca, al candidato del Partito Democratico in Lombardia, Penati, che è pienamente su questa linea e non ha alcun rilievo da muovere alla tua candidatura. Quindi sostanzialmente si può dire che questa alcune prese di posizione che vengono anche dal centrosinistra probabilmente si ridimensioneranno nel corso della stessa giornata. Quello che invece forse è utile continuare ad approfondire è un po' il quadro nazionale, come peraltro i radicali hanno annunciato da quest'estate, delle candidature e delle presentazioni radicali. Sì. Da questo punto di vista come si va avanti? Da questo punto di vista la consultazione, diciamo, con il PD prosegue. Come noto abbiamo visto ieri la governatrice Bresso per un giro d'orizzonte Piemonte e quindi per capire meglio le possibilità, mi pare siamo ad un buon punto almeno di una discussione comune. Il PD ha ancora aperte alcune questioni, per non dire Puglia, Veneto ed altre, ma continua questa consultazione che si è instaurata e che io penso stia dando buoni frutti, almeno di comprensione reciproca. Peraltro segnalo adesso, capisco bene, però nella lettura che ti ho sentito fare della rassegna stampa, non so chi inopinatamente faceva il paragone con Casini, ecco, non mi pare che c'entri proprio nulla, l'hai già sottolineato tu, cioè noi abbiamo delle regioni in cui andremo da soli e però non ne abbiamo regioni in cui siamo in coalizione col PDL, insomma. Emma, dicevi del tuo impegno totale sulla regione Lazio, da dove cominci? La campagna è di fatto stata raccontata aperta sabato scorso all'Eliseo, però siamo... No, adesso evidentemente, da una parte anche lì stiamo lavorando insieme con gli amici del PD per dare vita ad un comitato elettorale e quindi come si organizza, dove sarà, quali le prime iniziative, ed è chiaro che vanno organizzate e in qualche modo discusse insieme. C'è già una scadenza prevista per il 23-24 fine di questa settimana, le iniziative sui circoli, dovranno loro capire come e dove devo essere e come avviene, quindi io sono molto interessata e completamente a disposizione. C'è evidentemente comunque una situazione di attività al Senato che questo mi impegna, però credo che la cosa più urgente dal punto di vista del Lazio, anche per dare ordine e capacità e possibilità a tutti quelli che sono tanti, li ringrazio tantissimi, che telefonano per offrire disponibilità, per offrire o servizi o insomma per dare una mano in campagna elettorale. È chiaro che per non diventare un collo di bottiglia completo, la cosa più urgente mi pare è l'installazione e l'organizzazione del vero e proprio comitato elettorale, cosa su cui con loro e poi con Iervolino, con Spadacci ed altri stiamo accelerando al massimo. Ma ci saranno personalità in qualche modo cosiddette eccellenti, candidature famose? No, peraltro stiamo andando avanti nella composizione della lista Bonino-Fannella, di cui vi daremo informazioni, e ci apprestiamo anche alla raccolta delle firme, peraltro. Sì, questo veniva notato da un unico giornale oggi, il Manifesto, che diceva che i radicali stanno facendo le liste anche perché vogliono raccogliere le firme legalmente, è l'altro aspetto. Senti, a proposito dell'apertura della campagna elettorale a Roma, certo, quella ufficiale con il PD è appunto per i prossimi giorni, sì. Però intanto diciamo una apertura in qualche misura c'è stata con la manifestazione di sabato mattina all'Eliseo, di cui oggi c'era una cronaca e un'analisi, insomma, l'articolo di Nicoletta Tiliakos sul Foglio, e nei giorni scorsi anche il Corriere della Sera e Repubblica hanno fatto qualche articolo su questa manifestazione. Che giudizio le dai? Ma innanzitutto un giudizio di... era un impegno preso da tempo, come sapete, con Quaderni Radicali ed altri. Innanzitutto un giudizio d'atmosfera, devo dire, che mi ha molto rincuorato, cioè un giudizio di un'accoglienza di grande calore, ma anche di grande entusiasmo, di voglia di tentare insieme questa sfida, ognuno portandoci il suo. Quindi mi ha molto rincuorato, perché questo è un ambiente con cui si è aperto un dialogo, è esploso dalle liste europee soprattutto, ma probabilmente covava, o comunque per via Carsi, che si era sviluppato anche prima. Tant'è che rispetto ai temi tradizionali, in realtà il dibattito era incentrato sulla non violenza, che è un tema per noi radicali, per me molto appassionante, peraltro che seguo, e infatti ho voluto condividere con loro una delle letture più appassionanti che per me di questi ultimi tempi, che è appunto l'analisi che fa Ramin Yambeglo, leggere Gandhi a Teheran, che peraltro ha anche degli elementi di attualità, ma che è tutto un excursus storico e che arriva fino ai giorni nostri, che per me è stato di grande utilità e francamente di grande spessore. Sicché potevo stare poco, evidentemente, per varie ragioni, però sicuramente un dato di grandissimo calore, di grande entusiasmo, insomma un buon inizio mi è sembrato, e forse porta anche bene partire dalla discussione di un tema e di una pratica politica a noi così cara, in Italia normalmente spesso derisa, anche quando la utilizziamo, e peraltro poiché in modo sistematico la utilizziamo solo noi, finiamo sempre di essere derisi e irrisi, diciamo così, però mi è sembrato, dal punto di vista dell'atmosfera, e sono davvero molto riconoscente alle moltissime ragazze e ragazzi che stavano lì, perché mi hanno davvero molto molto rincuorato. Senti, invece tocca affrontare un argomento, mi rendo conto, spiacevole, ma anch'esso è una delle caratteristiche delle campagne elettorali, che non sono le Olimpiadi, insomma. E Giuliano Ferrara. Ma, tra l'altro la giornalista del Corriere, probabilmente ho capito male io la domanda quando mi ha chiamato ieri, dice: ma lei conosce Ferrara? E io ho detto: l'avrò visto una volta in vita mia, ma chiaro, non per ragioni di lavoro, quello non ci sono andato alle sue trasmissioni, ci mancherebbe altro. Pensavo che la giornalista mi volesse dire, siccome insisteva su me, c'è un odio privato, un personale, e io insistevo a dire che non ho avuto attività o frequentazioni sociali o personali con Ferrara. L'ho vista evidentemente quando stava alla 7, è la volta che mi ha invitato, ma io lui dice mi detesta dal punto di vista personale. Io non so, non ho mai, oltre ai dibattiti alla 7, non ho mai avuto altre frequentazioni, quindi non lo so, mi sembra così, carico di bile, sembra quasi una malattia, no? Un'ossessione, non lo so. Ma non so darne un'altra definizione, come se fosse la sua ossessione. Emma, invece, rispetto alle cose concrete che tu intendi mettere nel tuo programma, ovviamente per quel che si può dire in poco tempo, ma le parole chiave della tua campagna elettorale da questo punto di vista quali saranno? Beh, la prima è sicuramente trasparenza e stato di diritto. Guardate, io più leggo, più faccio incontri, ne ho in scadenza parecchi, ma vedo che per esempio la Regione Lazio ha delle buone leggi, in particolare però poi con scarsa controllo e alla fine poi disattese. Per esempio ce n'è una molto buona sul inquinamento ambientale, e però poi non ci sono né gli strumenti delle centraline di controllo, o comunque non sono adeguate, e quindi tutti i valori stabiliti per legge un po' non si sa se sono superati o no, quando si sa sono superati. L'altra questione è la trasparenza. Penso che proprio un modo di fare diverso e che porta di per sé un maggiore capacità di controllo da parte dei cittadini è non solo l'anagrafe pubblica degli eletti, che è stata un cavallo di battaglia nostro e che va assolutamente attuato, ma è anche l'anagrafe pubblica non solo degli eletti ma dei nominati. L'anagrafe pubblica, per esempio, sulla sanità, di tutti gli appalti, concorsi, nomine, e sembra, detto così, una cosa da poco. Invece è, e può essere, lo è stato in molte occasioni e in molte situazioni anche a livello internazionale, un modo completamente diverso che porta automaticamente a un maggiore dato di controllo e a, ovviamente, come sempre funziona come esito, la trasparenza. Quindi c'è da una parte un problema di metodo, questa regione è un po' tipica della situazione italiana in cui le leggi hanno poi poca, o le leggi o le direttive hanno poi pochi strumenti di monitoraggio, di controllo e quindi poi di valutazione. Questo come dato di metodo. Come merito, ad esempio, la Regione Lazio è l'unica regione che io sappia a livello italiano che in una situazione della Regione Lazio 100.000 persone in cassa integrazione o in cassa integrazione in deroga o quella straordinaria, anzi 80.000 più 20.000 in mobilità, è l'unica regione che ha istituito nel 2009 il reddito minimo garantito o il minimo sociale garantito per i disoccupati e i precari, che probabilmente e che ha stanziato 135 milioni di euro per il 2009-2011. A parte questo, c'è un problema di rilancio e sviluppo della regione. Io vedo due filoni su cui mi sento di essere piuttosto determinato. Uno è no allo sviluppo del nucleare, non serve in Italia, non serve tantomeno in questa regione. Credo invece che una politica basata su efficienza energetica, che produce lavoro per le piccole e medie imprese e quindi poi posti di lavoro, e sviluppo delle rinnovabili sia la strada da perseguire. L'altro filone che mi sembra ancora da sfruttare, perché a parte alcuni settori non mi sembra sia stato sfruttato appieno, è la questione di rapporti con l'Europa, non dico solamente fondi strutturali, che però anche quelli sono una buona cifra e ancora quasi tutti inutilizzati, ma io credo ci siano altre possibilità per il rilancio e lo sviluppo della regione, che deve diventare una delle grandi regioni, a mio avviso, una delle grandi regioni europee. Sul sociale, devo dire che la regione, nel limite del bilancio, mi pare abbia fatto molto. Probabilmente bisognerà vedere se è possibile incrementare, riducendo in parte sprechi, però mi sembra che almeno su questi due settori siano, il settore Europa, lo chiamo così in generale, sia una potenzialità non ancora completamente espletata. Solamente che nel frattempo vedo che nel decreto mille proroghe, per esempio, il governo di fatto cancella le zone franche urbane che avevamo ottenuto, negoziato con l'Europa, per la messa a punto di quartieri particolarmente degradati, e in Italia e in Lazio era stato scelto Sora e Velletri, che però cadono con il decreto mille proroghe. Quindi mi sto attivando con altri colleghi senatori per vedere di modificare questo articolo, che per esempio è parte del decreto mille proroghe stabilito dal governo. Ma rispetto alla... Ci sono mille altri settori, voglio certo. dire, vedremo di volta in volta, certo. Però il metodo della trasparenza sicuramente, del controllo delle leggi, dell'applicazione delle leggi esistenti, due filoni, secondo me, da vedere in modo molto netto, quello europeo da esplorare. È chiaro che poi rimangono i problemi che sono più incidenti anche nel bilancio, che sono la sanità, ma qui abbiamo un commissario straordinario, rifiuti, viabilità e infrastrutture, che anche quelle possono e debbono essere messe in sinergia per lo sviluppo e il rilancio economico della regione. Rispetto alla politica nazionale che discute di queste elezioni regionali, nel PDL si è aperta una, anzi nel centrodestra e anche nella coalizione della tua avversaria Renata Polverini, si è aperta una questione UDC. C'è chi dice che se Berlusconi domani dovesse vincere nella sua linea nell'ufficio di presidenza del PDL, poi anche dal Lazio l'UDC potrebbe uscire dalla coalizione. Però c'è anche qualche osservatore che, insomma, fa notare come poi gli interessi che stanno anche dietro all'UDC è innegabile, insomma, la parentela con un grosso attore del mercato immobiliare edilizio come Caltagirone, qualcosa peserà. Che cosa ne pensi tu? No, io penso che questo valutazioni che fa Berlusconi, questo dibattito, io non credo avrà conseguenze in Lazio. Io non penso che si arriverà a questo tipo di rottura, però magari mi sbaglio, ma a naso direi che probabilmente non arrivano a questo tipo di rottura. Ho capito. E invece, venendo adesso, ci stiamo avvicinando alla chiusura, venendo proprio alla tua campagna elettorale, allora ci sarà questa apertura che, però, se ho capito bene leggendo i giornali, è una giornata nei circoli, quindi sono una serie di appuntamenti decentrati? Penso di sì, ma abbiamo cominciato a parlarne ieri e evidentemente gli amici del PD faranno un attimo mente locale, mi faranno loro una proposta. Io sono non solo disponibile ma più che interessata. Come si svolga non ho ancora dettagli da dirvi. Ho capito. Per il resto? Per il resto chiudo la settimana prossima alcuni appuntamenti che non posso disdire a livello internazionale per poi dedicarmi totalmente a questa campagna elettorale, ma avrò una puntata in Piemonte lunedì a un dibattito con Ichino. Il Piemonte, appunto, abbiamo questo discorso aperto con la governatrice Mercedes Bresso. Questa settimana abbiamo il processo breve in aula fino a mercoledì. Giovedì spero che finalmente il governo venga in aula a rispondere ad una mia interrogazione sulla vicenda delle regolarizzazioni, si fa per dire, delle badanti. Il governo l'aveva già rinviata da dicembre perché non aveva i dati, spero che non rinvii anche questa volta, perché anche lì sarà un'occasione per riprendere tutta la questione Stato di diritto, rispetto delle leggi, permessi di soggiorno, regolamentazioni solo per le badanti e che in più vanno a rilento, troppo a rilento, mentre tutti gli altri mestieri sono esclusi. Insomma, spero che il governo questa volta non rinvii, perché certamente questo è tutto un settore di grandissima rilevanza per il Lazio e non solo. E poi, dicevo, questo venerdì, questo sabato e domenica a questo avvio, spero, caldo, caloroso e di slancio della campagna elettorale. Ma proprio in chiusura, accennare al processo breve, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Nel senso, del merito, il provvedimento, tu hai sempre detto, è incostituzionale. No, io sono intervenuta nel dibattito generale la settimana scorsa, ho ribadito e sono convinta che è così. Peraltro con un procedere del governo molto tortuoso, con maxi emendamenti presentati in aula che per essere rinviati in commissione per una qualche valutazione ci è voluto tutta la reazione molto determinata, devo dire, del PD e dell'opposizione, ma dovrebbe anche, adesso mi si dice, ma non ho ancora avuto conferma, che mercoledì pomeriggio dovrebbe il ministro Alfano venire in aula sulla presentazione, diciamo, della relazione sullo stato della giustizia e quindi probabilmente sarà lì l'occasione per capire se oltre le provvedimenti leggine, sia questo sia il legittimo impedimento che credo sia in discussione alla Camera, non so se già in aula ma certamente in commissione, e poi invece se il ministro Alfano in grado di delineare in modo più compiuto e organico i punti cardinali del Stato e della riforma della giustizia, che poco ha a che vedere con queste due leggine. Molto bene. Questa leggina del processo breve stabilisce uno strano meccanismo che è finito il tempo, finito il processo, una specie di meccanismo a clessidra. A parte appunto riferirsi in particolare ad alcuni reati, ad alcuni imputati, non risolve affatto il problema del sovraccarico dei processi, perché il processo deve continuare appunto fino alla scadenza del tempo, quindi continuano tutti gli atti processuali e poi arriva alla fine con questo meccanismo, finito il tempo, finito il processo, che però appunto fino a quel momento deve continuare. Quindi, come vedete, non ha neanche, come si dice invece, o si vuol far credere, un dato di semplificazione di tutto l'iter processuale. No, ti volevo chiedere, proprio l'ultima cosa, sta riprendendo forza, c'è stata anche un'importante intervista di D'Ambrosio, che è persona autorevole in materia, diciamo, sta riprendendo forza invece l'ipotesi della immunità parlamentare, perché a sinistra dicono alcuni almeno, piuttosto che fargli scassare il sistema giudiziario che già ha tanti problemi, almeno l'immunità parlamentare è una, diciamo, è la limitazione del danno. Vista così è perfino accattivante come tesi. Sì, il problema è di capire cosa si intende, se per via costituzionale o no. Il gruppo democratico aveva una riunione settimana scorsa per dibattere di questo tema, che si è invece dovuto rinviare per come sono andati i lavori alla Camera, ma anche lì si tratterà di capire, non dico i dettagli, ma proprio il contesto dove ci si pone. Mi permetto però di dire sommessamente che non mi pare esattamente la prima urgenza in termini di riforma di questo Paese. Va bene. Allora, grazie. Grazie a voi. E naturalmente appuntamento nei prossimi giorni, certamente, oltre che a lunedì prossimo. Grazie, evidente. Arrivederci. A presto. Grazie Emma Bonino. Fra l'altro noi, come sempre, vi faremo ascoltare la seduta del Senato, che oggi appunto si occuperà di processo breve, tra pochissimo di nuovo in diretta con la nostra programmazione.